Le auto oggi. Generalmente gli italiani hanno una gran passione per le automobili, il mezzo di trasporto preferito. Cambiano spesso macchina, amano guidare e usare la propria auto per viaggi brevi o lunghi.